later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli lo psicodramma è sempre un'ipotesi da tenere in seria considerazione, Kappa e Drago si trovano confrontati con una vasta quantità di polli. Ma cos'è tutta sta folla? Cosa succede? So. Sembrerebbe che tutti stiano andando verso la cappella di San Gallo, infine tutti indiano. Adesso? Sì, colastro, non lo sapete. Cosa? Oggi ci sono le primarie. Le primarie di cosa? Le primarie delle nomination. E cioè? Siccome le nomination vere e proprie tardavano ad arrivare, no? Allora abbiamo messo su un'organizzazione dal basso, alla base. E cioè, cosa succede qui, tutti sti polli in fila? Sì, cioè, che tutti, ma proprio tutti gli abitanti della fabbrica, stanno andando a fare le loro nomination alla, al confessionale elettrico, Tutti? Tutti. E tutti, suffragio universale, Via, calma. Pollo? Ma ce la farà il confessionale elettrico, Pollo? Lo vedo un po' in difficoltà. Questo qui si lamenta sempre che nessuno lo usa, adesso sarà contento, no? Nomination! Tarek, te l'ho già detto, tu sei nominato d'ufficio, come DJ Francesco. Ma cosa c'entra adesso DJ Francesco? Vabbè, era due anni fa, l'Isola dei Famosi, già il reality show è un argomento vecchio. Ma no, scusa, ma guarda bene Tarek, non è uguale a DJ Francesco. Tatuaggi, piercing, testa spelacchiata, piumaggio fulvo, occhio da talpa. In effetti. Oh signore, no. Sentite, no? Sì, ma questo qui, guardate che quest'estate se volesse potrebbe anche fare il festival bar. Ma se cosa volesse, fa? Sì. Può essere, lui cerca di piazzarci Tarek come fosse un impresario di spettacolo. Mi interessa? Ma sì, come? No, perché se interessa, per le serate estive facciamo solo 150, Ma come? 150, 150 serate. Ma quali serate estive? Ma sì, il banchetto dell'anguria, no? Sì. E track e track, poi c'è anche la pesca benefica. Lì piazziamo il palchetto, no? Con Tarek che imita DJ Francesco. E lì viene fuori un bello spettacolino, Sì, al banchetto delle angurie, in mezzo alle zanzare, sai che festa. Ma sì, ma poi mettiamo quella roba lì, quella con la luce azzurra, no? E poi le zanzare vanno dentro il frigo, no? La fabbrica di polli, polli, polli, Sfila, lasciate che i bambini vengano a me. Ma non fraintendetemi, del morboso. Sfila, sono pronto ad accogliere le vostre nomination e mantenerle in memoria in attesa che una mano pietosa scarichi le informazioni sulla chiavetta USB, metta nel cestino la cartella nomination e poi svuoti anche il cestino, liberando il mio povero cervello elettrico surriscaldato. Sfila, sfila, sfila. La palla rotola per le discese, la pelle invecchia nelle lunghe attese, il PIL non cresce più nel tuo paese, e il pollo ingrassa ma non ha pretese. Ci son parole che cambiano vocale, ma il senso del disastro, il senso del disastro resta uguale. Ehi, Tarek! Chi è quello, Tarek? Un tuo amico, ma come si chiama? Pollo pasta. E fa solo sto verso qui. Senti, ha detto sì. Ah sì, e se diceva no come veniva? Ecco, così ha detto no. Ma se era uguale a prima, un po' più loffio. Cosa ha detto? Mi ha detto che non capisci niente. Cosa che non fai? Impar- prendi in giro. Ma no. Senti. Cosa ha detto adesso? Ma non lo so, ma certo che ti sto prendendo in giro. Non dice niente, no? È un altro minus abens amico di Tarek che non sa articolare un discorso. Senti. Tarek, ho detto mille volte che non uscire col pollo pasta. Ma questo deficiente si chiama pollo pasta? Eh sì, pollo pasta. Voi non lo conoscete? No, che non lo conosciamo. Sì, questo qui è quello che negli anni 90 si calava una media di 40 pastiglie di ecstasy alla settimana, no? Che diciamo l'ha fatto per 3 anni, tipo, no? E adesso è ridotto così, eh. Ah, ecco. E Tarek esce con lui, e perché? Ma perché pollo pasta è un ex mito, no? Un ex mito? Eh sì, e Tarek, essendo psicolabile, è sensibile ai miti. E ancora di più l'ex miti, eh. Pollo pasta! Pollo pasta organizzava rave party con la musica elettronica 15 anni fa. Poi però le cose sono andate troppo bene e i soldi hanno cominciato a girare, eh? E Pollo pasta non è più riuscito a mantenere il controllo, eh? E no? Ma scusa, ma tu lo capisci quando parla? Io sì, ma questo qui parla chicken slang strettissimo, eh. Chicken slang? Sì, è uno slang che parlano in pochi, eh. E tu lo parli? Beh, certo, adesso non può fare allenamento, eh. Beh, allora prova a dire qualcosa in chicken slang. Vabbè, adesso, sul momento... Dai. Non so, tipo... you cannot hit me like this. Ma questo è inglese? Because you are... very fast. Ah, ma quindi è tipo in inglese, bisogna parlare tipo inglese e lui capisce? No, e qui sta bello, sembra inglese, invece slang. Ah, ecco. Slang. E com'è? Continuate? Fantastico, un dialogo in perfetto chicken slang. Roba da etnologi, Senti, di qui cominciano a litigare. Guarda. La fabbrica di polli. Sfira! Finora ho contabilizzato 18.749 nomination. Sfira! Attenzione! Comunicazione urgente! Qualcuno ha una chiavetta USB per togliermi un po' di roba dal cervello elettrico? Sfira! Nessuno? Sfira! Non ci posso credere. Nel 2007 nessuno ha con sé una stupida chiavetta USB. Sfira! Tutti con l'iPod, tutti con Bluetooth, tutti con tutto e nessuno che ha una fottutissima chiavetta USB. Sfira! E cerco di andare in modalità stop per risparmiare energia e mi prendo 10 minuti di... 10 minuti di... 10 minuti di... 10 minuti di... Ecco, sei incantato. Il confessionale si è incantato. Era ancora in garanzia? Ma non lo so, forse sì, credo. Beh, di sì. Basta chiamare l'assistenza. No, arriva. Ma lascialo stare, lascialo riposare in pace anche lui, dai. Ma tutti i polli che devono ancora fare la nomination. E lascia che siano loro a chiamare l'assistenza e a far cambiare il confessionale. Noi dobbiamo fare altro adesso, Drago. E cosa? Trovare le fottute telecamere e distruggerle. Ma capa, ma questa è un'allucinazione collettiva. Sono qui, te lo dico, che collettiva. Non c'è nessun reality show, solo la reality. Lo show qui non c'è. Qui siamo quello che siamo, senza speranza e senza finzione. Drago. Dimmi, capa. Ma che ora è? È mezzanotte. Certo. Questo è il sogno in cui è sempre mezzanotte, quindi per forza mezzanotte. Cosa vuoi dire il sogno? No, perché se questo è il sogno che è in cui è sempre mezzanotte, è per forza sempre mezzanotte, anche adesso quindi è mezzanotte. Cosa vuoi dire? Lascia stare, Drago, matematica. Che cosa succederà adesso? Quali significati arcani custodisce la sibillina frase di K? È davvero tutto un sogno come nelle peggiori sceneggiature? Prima di dividervi in due fazioni belligeranti, aspettate che passi il weekend e poi sintonizzatevi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo incontenibile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto da